te quando la tocchi, finge quando sorride, manda messaggi al mondo quando le va di uscire. Che bel profilo e quante belle fotografie. Betty è bravissima a giocare con l'amore e la violenza, si fa prendere e lasciare. Che cos'è la vita senza una dose di qualcosa, una dipendenza? Betty ha talento, sa ballare con l'amore e la violenza, vive bene, vive male, non esiste differenza tra la morte di una rosa e l'adolescenza. Elisabetta, temi per la sua vita, che sfida il buio come una fine di galleria. Betty è bravissima a giocare con l'amore e la violenza, si fa prendere e lasciare. Che cos'è la vita senza una dose di qualcosa, una dipendenza? Betty ha talento da ballare con l'amore e la violenza, vive bene, vive male, non conosce differenza tra il fiorire di una rosa e la decadenza. Love su immondizia da merici, sui suoi 5.000 amici, sui ragazzi e la città. Tanto poi ritorna il sole. Betty è bravissima a giocare con l'amore e la violenza, si fa vendere e comprare. Che cos'è la vita senza una dose di qualcosa, una dipendenza? Betty ha sognato di morire sulla circonvallazione prima ancora di soffrire.